Natale, no, sono già impegnati. Mi devo aggiustare qualcosa qua. I miei sono impegnati da un anno qua. Devo impegnarsi sia però qua. Tappare quel buco, devo tappare, che non lo sto facendo. E devo tirare. Poi ho aperto il blocco, vero? C'è un altro buco grosso, devo tappare un momento così. Però quello che mi interessa di più è quello del buco dei legni. C'è un bacchì. Io ho da aggiustarmi una porta in escendere da là, io me ne scendo. E dove passano i tubi del riscaldamento. E deve essere se fa tutto il rubavimento, se farà un lungo giorno di sotto. Sì, non è fatto bene il fondo. E magari basta metterci un paio di pezzi di ferro, un po' di calciastrutto e te lo riempi. No, gli metto il livellante, gli metto, diventa duro da sé in mezzo, perché passa, se farà tutto. Il colpo più grosso gli occhiali, adesso mi sono ricordato davvero. Lui, ma hai tre, non mi ricordo mai come sai. Hurricane c'ha fuori un lodo, raccolto, primo, 330 euro. Certo. Un regalo di Nadari chi suoi. Sì, allo allo Stato però. Il regalo sto facendo allo Stato io a Natale. Certo. Del muove. Purtroppo è così. Dice di garage pure così, no? Garage e casa, e campagna, riserve. Per serve pagolici. Anche quello c'è, è vero. Che allora lo Stato non risulta serve, risulta capannoni. E ti fanno pagare come si chiamano i capannoni. Tu dici poi ti coprire a erba, a vetro, a plastica, a demoni, sempre i capannoni. Certo, poi paga pure bagliccio. Beh, allora nelle campagne delle cicoce bisogna avere il capannone. Sì, capannone. Quello che risulta un capannone, la serra. Infatti c'è venuti una volta i vigili urbani a controllare, c'è un paio d'anni fa. Sono venuti i cani, sono appagliati, sono da cancella, c'è una macchina del comune. E ho detto, la state cercando, c'è caso roba presente. E che siamo venuti a vedere questi capannoni. Ho detto, capannoni qua non ce ne sono due serre. E c'avevo il disegno, la fotografia fatta dall'elicottero. Vedi questi qua sono. E però sono due serre, no, capannoni, non è risulta capannoni. E dunque lei si mette in testa e quelli sono capannoni, non serve. Certo, è compreso. Con i droni fanno i cosi, le fotografie. Il giorno che hanno fatto i cosi con i droni stanno tornando a ripassare. E anche l'elicottero, in campagna l'elicottero sarà 15 giorni fa. C'è stata un'oretta, passo, stavo facendo le prese. Sì, anche con gli elicotteri. Chissà chi si aggaggia che si campagna con chi si aggaggia che la vendendia, se non l'hanno invigliato buonissimo. Adesso ha aumentato di più perché c'è quello di Costantino attaccata. Pure? Certo. Abusive, no? Scusa un attimo, a mio figlio cercando il trapano. Proprio. Non se ne compareggia, io non li svegliavo il babbo. Non lo sai che è così. Non lo sai che è così. Anche mia figlia me l'ha chiesto. Eppure mio marito va tutto in officina. Fanno andare in officina, figlia Siro. E io te non che domanda a me. officina, non si deve andare a pigliare, invece in casa di papà tutti lo c'è per tutti. Anche così, ma anche se anche a me, mia figlia, ma di tu, ma trappano come la percussione c'hai, io c'ho il trappano a percussione, quale vuoi, quello grande o quello piccolo? Oh, il black, mi l'ha detto, black è che vuoi, c'ho quello lì anche a percussione. No, viene mio, adesso viene Giuseppe a prenderlo. Vabbè, piglia di ru. Andiamo, però io che ho facciamo meccanica. E l'ha ajudato Black Edel, che l'ha ajudato. Guribunti e tutto. Si è consumata la plastica, si è consumata, gli anni che c'ero il tasto non arriva alla corrente. Allora mi vedo che aggiungere un pezzo, mi vedo che aggiungermi fatto in plastica. No, io sono uno grande, devo sempre, e per l'abitatore anche trapano, ma è grosso, e si è infasciato nei terrori, non attende nessuno. No, io... dal tasto a me, che fa anche da coso fa, da molto picco va di burro. Sì, anche questo qua, è grande, è un mostro, usato poco e niente, non funziona. Si è smontato il interruttore e non si trovano, e adesso che te ne vado più diretto. E se si aspira e gira. L'unica cosa è... No, io da questo qua ho visto che c'è un pezzo di plastica, deve essere plastica morbida, deve essere ammagnato. Ed è aggiunto come coso. È messo sopra in coso così, a incastro. E se l'ha mangiato se l'ha. Ecco perché non andava l'interruttore. Adesso io gliene faccio uno bello di quella plastica dura, gli faccio e voglio vedere se funziona bene. Bisogna essere allo stesso livello, come in calchi si aggancia, capito? Si aggancia, quello che ho smontato io non c'è un pipero, eppure non funziona, non arriva corrente. L'ho aperto, penso perfetto, l'ho ripiazzato, non lo so. Ma chi c'è? C'hai il condensatore che si è bruciato, no? Ah, boh, non l'ho provato, quello non ci ho pensato, l'ho fatto, non lo so. Perché vicino all'interruttore c'è un condensatore piccolino, c'è un condensatore che gli dà la forza di come schiacci, è quello lì che gli dà la forza per funzionare. Chiaro, è quello che dà la forza che vuoi. Sicuramente il suo, sicuramente è quello lì, perché io, il mio quando l'ho aperto c'è un condensatore vicino all'interruttore. Via. Aspetta che c'è il meccanico qua, gli do la trappa. Dai, chiudiamo Tone, anche è già ora. Ci sentiamo domani Tone, ciao, buonanotte, saluto in casa, a domani, bye bye. Ok, ciao signor Bacchi, ci sentiamo domani. Se in caso mi faccio una scappata.